miscredenti. Meccana numero 18 di 6 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di, o miscredenti. La a'budu ma ta'budun. Io non adoro quello che voi adorate. Wala antum a'budun ma a'bud. E voi non siete adoratori di quel che io adoro. Io non sono adoratore di quello che voi avete adorato. E voi non siete adoratori di quello che io adoro. A voi la vostra religione, a me la mia.